su tutti i giornali del mondo, e dai, facciamo anche noi una piccola riflessione su appunto l'intervista tra Oprah Winfrey e Harry e Meghan Markle, e Harry Windsor, il cognome Windsor, e più che parlare dell'intervista in sé è curioso un po' riflettere su le ripercussioni su una serie di questioni, e quindi parleremo anche di quello. Quindi, prima di iniziare, volevo un po' aggiornarvi. Due settimane fa avevo dedicato la trasmissione alla protesta nei cunicoli sotto la stazione di Euston a Londra. Questi attivisti contro il nuovo TAV inglese, che si erano costruiti dei tunnel appunto sotto la piazza antistante la stazione Euston, dove dovrebbe partire la linea per andare verso Birmingham, e erano già sotto per da 4 settimane, dalla fine di gennaio appunto, e ci siamo lasciati con ancora 4 persone sotto da 4 settimane appunto. E niente, il giorno dopo infatti ne sono uscite 3, e poi è uscito l'ultimo attivista il venerdì. Noi ci siamo sentiti mercoledì l'ultima volta, 26 febbraio, quindi è uscito l'ultimo manifestante attivista il venerdì, e quindi sono stati sotto terra per 31 giorni in totale. È una modalità di protesta che comincia ad essere sempre più comune tra il movimento ecologista, e abbiamo anche parlato l'ultima volta anche delle ambivalenze di questo movimento, e quindi è sempre più comune questo tipo di protesta, direct action, azione diretta. Però loro cercavano di superare il record che di qualche anno fa, 40 giorni, un attivista è stato sottoterra nella contea di Essex, non mi ricordo, protestando contro che cosa, e quindi non è la protesta sotterranea più lunga della storia inglese, però nonostante ha avuto un risalto sui giornali notevole, e infatti la gente ha cominciato anche a fare sia nella stampa diciamo centro-centrosinistra, sia tra il pubblico, tra l'opinione pubblica, hanno cominciato a fare anche delle riflessioni sull'impatto che avrà questo megaprogetto di miliardi che collegherà appunto Londra e Birmingham in una prima fase, poi ci saranno dei diramazioni verso Manchester e Leeds. Dunque, come ho detto, parliamo prima, e oggi siccome sono due temi, allora metterò a più stacchi musicali, come facciamo sempre. E dunque, la prima questione appunto il 1%, no? L'1% che viene offerto dal governo a questi nostri eroi britannici che hanno un po' salvato la nazione, sono state anche fondamentali per questa vaccinazione di massa. Non è semplicemente la bravura del governo, ma infatti non lo dicono, perché il governo conservatore ha sempre avuto un rapporto abbastanza difficile col Servizio Sanitario Nazionale, ma se non ci fosse stato per il servizio, l'NHS, non ci sarebbe stato questa vaccinazione velocissima. Infatti altre strategie del governo nei mesi passati sono andate male, proprio perché hanno deciso di appaltare per esempio il programma di rintracciare i positivi sostanzialmente a degli amici, amici di amici, e tutte queste tentativi di tenere sotto controllo la pandemia sono falliti, mentre invece, come adesso sfrutta chiaramente il governo questo aspetto della vaccinazione, il paese che ha avuto, è riuscito a vaccinare con una certa velocità, cercando di giocare nazionalismo del vaccino, c'è chi dice grazie al Brexit, ma sostanzialmente in fondo è la capacità di questo servizio, nostro servizio sanitario nazionale, che è riuscito a portare avanti questa campagna di vaccinazione. Ecco, parliamo invece appunto di questa offerta di aumento di stipendio. L'anno scorso, come vi ricordate, come ci ricordiamo, in Italia c'è stata la fase delle striscioni fuori alle finestre. Cioè tutto andrà bene, eccetera, eccetera, per un paio di mesi. In Inghilterra invece per un paio di mesi c'è stato un momento settimanale ogni giovedì in cui le persone uscivano da casa e applaudivano gli operatori sanitari. Si chiamava il Clap for the NHS, l'applauso per l'NHS. E quindi appunto durante i mesi di marzo e aprile la gente usciva dalle case e per 10 minuti applaudivano per ringraziare appunto il sacrificio dei lavoratori del servizio sanitario. Ricordiamo un servizio massacrato da tagli e privatizzazioni da ogni governo, anche quello Blair e Brown, laborista appunto, quindi massacrato da tagli dai tempi della Thatcher. E anche prima della pandemia c'è da sottolineare che il governo, non quello di Johnson ma quello di Theresa May, aveva votato contro una proposta della Labour di Jeremy Corbyn di abbandonare il tetto massimo degli aumenti di stipendio, che era fissato allora a 1%, e quindi c'è stato anche questo momento nel 2017-2018 in cui tutti i deputati, compreso anche Boris Johnson, acclamavano questa vittoria su l'idea folle di aumentare lo stipendio ai operatori sanitari. E quindi il servizio sanitario entra nella pandemia con stipendi bassissimi, con morale del personale bassissimo, mancanza di posti letto, mancanza di abbigliamento sanitario protettivo, e c'è stato uno scandalo enorme su l'impreparazione totale, anche se con mesi di allarme che arrivavano prima dalla Cina, poi dall'Italia. E quindi Regno Unito impreparato di affrontare le emergenze, però c'è da sottolineare che l'istituzione, l'NHS, è l'istituzione pubblica più amata nel Regno Unito, fa parte dell'orgoglio nazionale, cioè ci sono i pub, ci sono i fish and chips, c'è la regina Elisabetta di cui parleremo dopo, e c'è anche l'NHS. Infatti, per esempio, durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici c'è stato anche tutta una fase alla fine della cerimonia in cui sono entrati gli infermieri, c'era tutta una storia cronologica del Regno Unito, di Londra, e si arriva dopo la guerra che arrivano i migranti dal cosiddetto Commonwealth, dalla Giamaica, e molti entrano nel servizio sanitario. Quindi c'è questo momento in cui si celebra il multiculturalismo e si celebra la nascita di questo servizio sanitario, e questo è anche un aspetto molto importante da sottolineare, no? Che c'è questo attaccamento al servizio sanitario, e negli ultimi anni c'è anche stata una forte resistenza organizzata contro le riforme, contro le chiusure di strutture, contro le privatizzazioni. E infatti durante la pandemia c'è stato molto rabbia proprio su come è stato maltrattato dai Tories con i tagli. una rabbia anche di massa, e quindi c'era chi scendeva ad applaudire con questo atto simbolico ogni giovedì alle 8 di sera, ma scendevano anche i Tories ad applaudire, e quindi c'è un filmato oramai molto famoso di Boris Johnson e Rishi Sunak, che è il ministro dell'economia, che scendono fuori dalle loro residenze ufficiali a Downing Street vicino al Parlamento. Boris Johnson come primo ministro sta al numero 10, Rishi Sunak sta la porta accanto, e escono e cominciano ad applaudire anche loro, partecipano al cosiddetto applauso per l'NHS, per il nostro servizio sanitario. E poi c'è da ricordarsi che Boris Johnson era in questo filmato, appunto, era poco dopo che era stato dimesso dall'ospedale, perché appunto aveva preso il Covid e aveva anche rischiato la pelle, ed è stato curato in un ospedale NHS davanti al Parlamento, e addirittura ha dato come secondo nome a suo figlio, che è nato in quel periodo, il nome dell'infermiere migrante portoghese che gli aveva salvato la vita. Quindi tutto questo, diciamo, questo gioco simbolico. Comunque questo filmato è famoso anche per il dialogo tra questi due, e c'è un po' di tensione, un po' di rivalità tra Johnson e Sunak, perché si dice che Sunak, che è di origine indiano, è un politico molto ambizioso come Johnson stesso. Anche lui punta su qualche futuro di diventare anche lui, no, un prossimo primo ministro del paese. Quindi c'è questo dialogo mentre loro scendono, ci sono tutte le telecamere fuori che li riprendono, e c'è questo seguente dialogo, e Boris Johnson dice: e dai, tutta la nostra stima, tre urrà per il servizio sanitario nazionale e tutti quelli che ne fanno parte. E Rishi Sunak risponde aumentando un po' comunque sottolineando anche la sua stima, e lui dice: grazie per quello che state facendo. E Boris Johnson subito dice: grazie a tutti voi per quello che state facendo, vi sosterremo in qualsiasi maniera, giusto Rishi? E Rishi Sunak risponde: qualunque cosa di cui avete bisogno l'avrete. E poi praticamente continua lo scandalo della mancanza di abbigliamento protettivo, il lockdown che arrivano sempre in ritardo, che il governo non ascolta i consigli degli scienziati, eccetera eccetera. E nel frattempo muoiono più di 850 lavoratori del servizio sanitario, molti dei quali cosiddette BAME, cioè Black Asian Minority Ethnic, appunto delle minoranze etniche, molti dei quali lavorano in prima linea come infermiere, anche come addetti alla pulizia. E come ho detto, anche grazie anche al servizio sanitario, che si è riuscito a vaccinare così tante persone in poco tempo. E quindi arriviamo ai nostri giorni. Venerdì, il 5 marzo, quindi venerdì scorso, qualche giorno dopo l'annuncio del bilancio di previsione di quest'anno del ministro dell'economia, appunto Rishi Sunak, il governo annuncia la sua decisione di offrire un aumento di stipendio di 1% agli infermieri, che vuol dire intorno a 3 sterline 50 alla settimana, per un infermiere qualificato con 10 anni di esperienza, che guadagna più o meno 30.000 sterline, in 30.000 euro all'anno. Che però vuol dire con l'inflazione, che di fatto significa un taglio di stipendio. E infatti tutti gli operatori dell'NHS da 10 anni oramai si trovano il loro stipendio che si aumenta sotto il livello dell'inflazione. E loro dicono subito, vanno chiaramente su tutte le canali televisivi, tutti i TG, il ministro della sanità, il ministro dell'economia, dicono: la scusa è che noi siamo di fronte a una crisi economica, non abbiamo soldi, però abbiamo pensato almeno ai infermieri, che loro hanno diritto a uno stipendio, tutti gli altri lavoratori nel settore pubblico non hanno avuto nessun aumento e quindi loro dovrebbero essere grati per almeno 1%, anche se in realtà si era messo d'accordo già l'anno scorso, prima della pandemia, che comunque aveva promesso il governo almeno un aumento di 2%. Comunque, cosa vuol dire? È chiaro che tutta la stampa libera la grida l'ipocrisia, no? Cioè che questi che scendevano a applaudire il ministro della sanità che dava lavori agli amici, però comunque ci metteva la spilla dell'NHS sempre in prima vista quando andava a fare l'intervista in televisione. Vabbè, è chiaro che c'è un'ipocrisia spudorata dei Tories, ma si sa questo dall'anno zero. Sono sempre stati bravi a giocare con l'ipocrisia nei momenti giusti. No, la reazione più importante è la domanda che ci poniamo è: che cosa fanno appunto adesso i sindacati, gli operai? Cioè, lasciamo stare l'ipocrisia del governo. E cosa succede? Già i sindacati chiedevano tra 12, perché sono 4 sindacati che rappresentano i lavoratori del servizio sanitario, c'è cioè chi per esempio il Royal College of Nursing, che rappresenta 450.000 infermieri, che chiede 12,5% di aumento, per in realtà aumentare lo stipendio ai livelli di 10 anni fa. E si è ha messo già a disposizione un fondo di sciopero di 35 milioni di sterline, che comunque, visto che sono 450.000 iscritti, non è, stiamo parlando di 70 pound a iscritto. Ci sono altri sindacati che chiedono di più, tipo Unite c'è una campagna per chiedere 15%. Comunque tutti si stanno mettendo insieme e hanno proposto per stasera, giovedì 11 marzo alle 8, sempre alle 8, un altro applauso, ma questo sarà un applauso lungo, sarcastico, che deride l'offerta del governo, quindi a long clap for the NHS. Quindi i britannici sono famosi per il loro sarcasmo, e quindi si spera che anche oggi esce la gente come l'anno scorso a marzo e aprile e si mette a applaudire in maniera sarcastica. Secondo i vari sondaggi, uno non può mai credere fino in fondo, però il sondaggio dell'Observer, che il Guardian che esce la domenica, ha detto che 72% della popolazione è contro questa proposta irrisoria. Il problema è che questa è una proposta. Adesso l'ente che decide sugli aumenti prende le proposte anche dai sindacati, dalle varie organizzazioni che rappresentano anche gli enti sanitari, e dovrebbe dare le sue raccomandazioni a maggio. Quindi comunque, se si tratta di uno sciopero, bisogna comunque aspettare a maggio alla raccomandazione, che sicuramente sarà sopra l'1%, magari arriva a 2,5. Dopodiché, visto le restrizioni sul diritto di sciopero dal 2016 con la nuova legge, bisogna poi fare un voto, a meno 40% di 70% dei votanti deve decidere di sì, poi bisogna comunque preannunciare uno sciopero di 2 settimane prima del fatto, e quindi prima possibile si può parlare di uno sciopero a giugno. Quindi qua non si tratta solo di ipocrisia, ma anche di cinismo da parte del governo, perché sa in cui mo che si sta uscendo pian piano dalla pandemia, si arriva a giugno d'estate che la gente cerca di un momento di, che poi nel frattempo ci sono tutte le scadenze in cui riapriranno tutto, quindi già a maggio, agli inizi di giugno sarà aperto praticamente tutto secondo comunque il programma del governo, quindi la possibilità che un pubblico nazionale continua a sostenere uno shop, bisogna insomma vedere. Però adesso almeno i sindacati stanno cercando di creare anche una massa critica anche nella popolazione, e stanno cercando appunto con azioni simboliche, giocando quasi in maniera situazionista, quello che ha fatto, a cui ha fatto il governo in passato. Dunque facciamo uno stacco musicale e mando un pezzo di un gruppo che in queste settimane sta festeggiando 25 anni di attività, e per la prima volta in 25 anni è riuscito ad arrivare a numero uno nella classifica degli album più venduti, anche facendo tutta un'operazione producendo dischi, perché comunque le classifiche in Inghilterra, in Gran Bretagna, sono ancora a base delle vendite di vinile, di CD, eccetera eccetera. Questi sono i Mogwai, un gruppo di Glasgow post rock, e questo dal loro ultimo album, e questo si intitola Richie Sacramento. Thank you. E ricordiamo nel frattempo che alle 12 dire tu. Ecco, scusate perché c'è dopo, poi c'è un annuncio per dopo. Ecco, quelli erano i Mogwai, gruppo di Glasgow, che quindi abbiamo parlato adesso della questione sanitario, però adesso ci spostiamo su una questione molto meno importante, però che ha delle ripercussioni e tutti se ne parlano. Se in Italia c'è Sanremo, nel Regno Unito c'è la famiglia reale. Tutti magari dicono che snobbano queste due questioni, però se succede qualcosa di no, che crea scompiglio, crea scandalo, pare che tutti ne parlano. E quest'anno, come se le pianete si fossero allineate, Sanremo e l'ennesimo ultimo scandalo della famiglia reale sono capitati insieme. E sto parlando appunto dell'intervista tra Oprah Winfrey, diciamo la regina dell'aristocrazia hollywoodiana, una delle persone più pagate nel business dell'intrattenimento americano, che è una vicina di Harry Windsor, principe Harry, e Meghan Markle, e quindi c'è stata questa intervista. Non è che ne voglio parlare proprio del contenuto, sottolineo i due aspetti che hanno creato questo scompiglio. Innanzitutto la questione del razzismo, quindi pare che quando Meghan era incinta, secondo proprio le parole di Harry, qualcuno della famiglia reale avrebbe chiesto a Harry previsione sull'incarnato del pargolo che doveva nascere, che non mi ricordo, Archie si chiama. E Meghan ha sottolineato questo aspetto del razzismo all'interno della famiglia reale, e ha lamentato anche una persecuzione da parte dei tabloid di destra anche sulla questione razziale, no? Sul fatto che di mixed heritage, come si dice, padre europeo e madre afroamericana. E appunto i giornali, quando si sono messi insieme, Daily Mail, che è uno dei giornali peggiori, ha detto: ecco, Harry ha trovato la sua fidanzata che arriva dalla cultura gangsta, no? Perché è cresciuto vicino a Compton. Ecco, nel 2015 era uscito questo film Out of Compton appunto sul gangster rap, e quindi c'erano proprio queste insinuazioni, no? Quindi la prima questione è la questione del razzismo, la seconda questione è quella della salute mentale, no? Che Meghan aveva detto che aveva avuto pensieri da suicidio proprio quando era incinta, proprio perché non poteva andare da nessuno a chiedere aiuto, e le volte che è andata a chiedere aiuto gli è stato detto che guarda, qua non puoi uscire fuori dall'istituzione, qua non c'è nessuno, tu te la devi cavare da sola. E quindi la famiglia reale, insomma, si sa da sempre che è un'istituzione razzista. Si ricorda l'abdicazione di Edoardo VIII nel 1937 per fatto che si era sposato ha deciso di sposarsi con una donna divorziata, ma c'era anche il fatto che tutte e due erano dei nazisti. Poi il principe Filippo, marito dell'attuale regina, ha cinotto i suoi gaff verso i paesi africani, le popolazioni dei paesi africani del Commonwealth, si sa che lui è molto più contento di andare nella cosiddetta Kanzuk, che è la zona bianca del Commonwealth, no? Canada, Nuova Zelanda, l'Australia, no? E che si lamentava quando doveva andare in altri posti tipo Ghana o Malawi. Quindi non è niente di nuovo, è la scoperta dell'acqua calda in certo senso, anche per la questione della salute mentale. Si sa che ci sono due cugine della regina che praticamente avevano delle forti problemi mentali, questione di disabilità mentale, e che sono stati praticamente mandati, cioè, in ospedale, e non se ne è più parlato, e pare che una è morta addirittura solo un paio di decenni fa, ma nessuno sapeva più dell'esistenza di queste due persone. Quindi non è niente di nuovo, magari qualcosa di nuovo è come ha avuto anche delle ripercussioni, secondo me anche piuttosto interessante. Cioè, innanzitutto tutti ne hanno parlato, no? C'è qualche gruppo, magari il movimento, per esempio Plan C, no? Che è un gruppo politico movimentista molto legato anche ai movimenti in Europa, che non ne hanno parlato. Però se si va invece a vedere tutti i giornali, i siti di gruppi anche extraparlamentari, ne hanno parlato, da Morning Star, che è il giornale del Partito Comunista Britannico, al Socialist Work, che è il giornale tabloid del partito trotskista principale britannico, e tutti hanno parlato di questa intervista sulle ripercussioni. Ecco, andiamo veloce e sottolineiamo le tre cose principali. Uno, la domanda è che qual è il corollario di questo? C'è qualche spazio adesso che cresce il movimento repubblicano, che si può mettere sul tavolo la possibilità di un'eventuale abolizione della monarchia? E questo è certamente una questione posta da, appunto, giornali come Morning Star e Socialist Worker. Per esempio Morning Star ha un titolone: l'istituzione marcia, se ne deve andare. Socialist Worker dice: il regno reale deve finire. E quindi, no, praticamente parlando a chi già pensa in questo modo, sicuramente all'estero le cose si complicano. Già un ex primo ministro di destra, Malcolm Turnbull dell'Australia, ha già detto: oh, ora è proprio il momento di tagliare i legami costituzionali con la monarchia britannica. Non è più possibile che abbiamo come capo dello Stato una persona che sta a 1000 chilometri e che in mezzo a questa famiglia, appunto, c'è queste accuse pesanti. Tra l'altro, ho dimenticato anche di dire, la persona che aveva chiesto a Harry sulla questione del colore della pelle era qualcuno dentro la famiglia. Si sa che non è stata la regina, non è stato il principe Filippo, che questa volta ha tenuto chiuso il becco, perché è uno che fa, appunto, gaffe razziste. E quindi si pensa, i sospettati in prima linea sono o Carlo, che sarebbe il prossimo re, oppure addirittura il fratello di Harry, che è Guglielmo. Questi sono i due sospettati. E quindi sì, all'estero c'è chi spinge, c'è anche un articolo che è uscito su Jacobin in lingua inglese sulla questione in Canada, no? Cioè, il Canada è che si vanta, no? Questa mitologia del multiculturalismo canadese, che viene anche spinta anche dalle istituzioni, dalle elite, cioè non può più avere come capo di Stato, uno come cioè una famiglia reale che è mischiato in queste questioni. Per quanto riguarda il Regno Unito, però, chi magari va oltre il titolone, a sinistra si parla che comunque non succederà molto nei prossimi anni, perché finché rimane Elisabetta sul trono non si fa niente, cioè non si tocca la nonna. È stata in realtà nell'intervista la regina è quella che è uscito meglio, che ha sottolineato Harry, a me non, in realtà non me ne frega più di tanto, però Harry ha sottolineato che ha cercato di parlare con lei e lei poi non è uscito più perché qualcuno ha detto che la regina non poteva più parlare con Harry, eccetera eccetera. Quindi comunque c'è una certa stima collettiva verso la regina, tanto c'ha 94 anni, il problema inizierà quando e se arriva Carlo, che è un personaggio molto più complesso, che ha seri problemi nel relazionarsi con il paese, e qua inizieranno i problemi, anche perché c'è una chiara netta divisione generazionale, perché si sono di nuovo tutti i sondaggi, ci sono chi ha più di 65 anni che non crede nelle parole di Meghan Markle, invece tutti fino a 35 anni basta, non ce la facciamo più, questo non ci rappresenta più, e quindi c'è questo aspetto, perché comunque Carlo rappresenta un po' un passato che non riesce più a dialogarsi con le nuove generazioni. Quindi se nascerà un movimento repubblicano bisogna comunque aspettare qualche anno. C'è da dire comunque che questo problema non va via. Nel caso di appunto di Anna, dopo un paio di anni, dopo questa intervista che ha fatto alla televisione, si sa, è entrata in un tunnel ed è morta. Nel caso di Harry, che comunque è il fratello dell'erede al trono, questo aspetto non va via, no? Almeno per i prossimi anni, quindi rimane e si vedrà se un movimento repubblicano nel Regno Unito, che già esiste in realtà, che se può anche crescere. Allora facciamo un altro stacco musicale e ho voluto mettere una cosa a tema, mi dispiace ma io non ci metto mai qualcosa dei Smiths, quindi Queen is Dead non lo mettiamo, e non mettiamo neanche Sex Pistols Anarchy in the UK, perché pure Johnny Rotten e Morrissey oramai si sono persi sensi, sono due personaggi piuttosto reazionari, magari un'altra volta ne parliamo. Quindi invece parliamo della regina del punk anni 70, che sono 10 anni della sua morte. Questa settimana esce un documentario molto bello sulla vita della cantante di X-Ray Specs, Marianne Joan Elliott Said, meglio conosciuta come Polystyrene, donna metà scozzese metà somala, che appunto è diventata la cantante di uno dei primi gruppi diciamo femministe della scena punk, è diventata un'icona, la prima cantante di colore di qualsiasi gruppo rock nel Regno Unito, e dunque mando anche per ricordare appunto il 10 anni dalla sua morte. Lei è morta il 25 aprile del 2011, anche il fatto che esce questo film, e anche a dare il dito medio alla famiglia reale. Questi sono gli X-Ray Specs, Our Bondage Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think up yours! 1, 2, 3, 4! Five, eight, time, eight, seven, two, siamo tornati di nuovo in voce e interrompiamo un attimo il compagno appunto che ci stava facendo questa rassegna europea per ricordare l'appuntamento di oggi alle ore 12 in Campidoglio, chiamato dalla Casa Internazionale delle Donne, insomma diciamo un appuntamento per farsi sentire dalla sindaca, dalla Raggi, insomma che sembra non dare risposta a tutte quante le realtà cittadine che invece vengono anche riconosciute oltre che dai quartieri e dalla città, ma anche dal Parlamento nel caso della Casa Internazionale delle Donne. Quindi più tardi sentiremo anche la piazza appunto del Campidoglio. Quindi l'appuntamento, ripeto, per tutti e tutte è alle 12 al Campidoglio. Grazie. Ecco, grazie. E adesso chiudiamo questa vicenda e cerchiamo di non parlarne più, però almeno godiamo di questo periodo di difficoltà della famiglia reale, che insomma dicono che lo scandalo più, almeno la crisi più dura dai tempi appunto dell'abdicazione di Edoardo VIII, quindi è una cosa più grossa anche rispetto alla morte di Diana, insomma. E quali sono state le reazioni? Quindi la reazione politica, e la cosa da sottolineare è che Boris Johnson non ha detto praticamente nulla, ha detto semplicemente che noi ci fidiamo nella figura della regina, che la vogliamo, no, tutti bene, e poi non ha detto altro. Perché non ha detto altro? Perché non aveva bisogno di dirne altro, perché comunque c'ha tutta una stampa che lui lo sa, dice quello che è utile per lui. Invece la risposta da parte di Keir Starmer, che è la leader del Partito Laborista, che ultimamente veramente si trova in difficoltà, cioè veramente insomma non pare di essere neanche all'altezza di creare delle argomentazioni forti da mettere in difficoltà il governo, proprio nel momento in cui sarebbe anche facile da fare certe argomentazioni. Comunque, da sottolineare che Starmer almeno questa volta ha detto quello che doveva dire, che la questione del razzismo e dell'ascolto, questione di salute mentale, sono due cose fondamentali, che noi stiamo vicino a Meghan Markle, ma sono questioni che bisogna affrontare per tutti noi. Quindi il minimo che poteva dire l'ha detto, però è da sottolineare che un dibattito politico non c'è stato e non ci sarà, perché chiaramente il governo non ha nessuna intenzione di parlare più di tanto di questa vicenda. Quello che invece è successo, che è la cosa secondo me più interessante, è che è stata una bomba nei media, perché appunto Meghan Markle, anche Harry in particolare, hanno attaccato i giornali tabloid, i giornali di destra, dicendo che sono a parte che hanno perseguitato le loro due, comunque li hanno accusati di essere razzisti, no? E quindi l'accusa di razzista a un bianco di destra è specialmente in Inghilterra, poi ne parliamo del contesto, è un'accusa che mette molto in difficoltà e crea delle reazioni a volte isteriche, no? Cioè quasi per dire che un bianco, un uomo bianco accusato, una istituzione bianca accusata di razzismo, è più questa è più questione di vittimizzazione che una persona nera che è vittima di razzismo. Non mi sono spiegato bene, però spero che avete capito, no? Cioè l'idea che, no, di essere accusato di razzismo è peggio proprio della violenza razzista in sé. E quindi cosa è successo? I media si sono impazziti e subito dopo l'intervista, c'è stata una dichiarazione da parte della società degli editori. Molti in Inghilterra ha detto: ma chi sono questi? Ma non abbiamo mai sentito di questa organizzazione. Questa è praticamente la Confindustria degli editori, quindi tutti i grossi nomi, tutte le testate, che hanno detto che la stampa britannica non è razzista, ha sempre avuto una forte fama mondiale di mettere sotto scacco chi ha potere, non ha mai abbandonato questo suo scopo sociale, e quindi noi rimandiamo al mittente proprio queste accuse. La stampa britannica non è razzista, che si sposa molto con questa mitologia nel Regno Unito, che è un paese in cui il multiculturalismo fa parte di un senso comune della società contemporanea di questo paese, e che la stampa, anche quella di destra, non sarebbe mai razzista, perché appunto ha imparato le buone maniere, e comunque l'idea che i razzisti sono quelli cattivi, cioè le persone buone in fondo non sono razziste. Quindi qualche commento qua e là non può essere utilizzato per infangare i media. C'è da dire che comunque tutti i rapporti, anche a livello europeo, sottolineo che i giornali, le testate più razziste, cioè sulla questione dell'immigrazione, sulla questione della popolazione islam, proprio a paragone, sono alcuni giornali, in particolare Daily Express, Daily Mail, Sun, che a livello europeo sono quelli più razzisti. Tipo 80% degli articoli del Daily Mail sulla rappresentazione dell'Islam sono rappresentazioni negative. Idem sulla questione dell'immigrazione, che portano malattia, invasione, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso che non tiene, e infatti c'è stata una reazione arrabbiatissima a queste dichiarazioni della Society of Editors, la società, la Confindustria dei giornali, e quindi una lettera firmata da più di 200 giornalisti neri asiatici, dicendo che ci sono grossi problemi, non è vero, che la stampa si deve anche guardare, si deve riflettere proprio sulla sua responsabilità a costruire anche delle immagini, della rappresentazione, anche rispetto alla questione di Meghan, ma non soltanto. Quindi in realtà è un discorso che va al di là della coppia che adesso ha scambiato l'aristocrazia britannica per l'aristocrazia americana, quella hollywoodiana. E quindi anche alcuni giornali, il Guardian, l'editor del Guardian, quello del Financial Times, hanno tutti scritto pubblicamente che noi non siamo d'accordo con queste dichiarazioni. Dire che la stampa non è razzista è dire una sciocchezza, e che comunque che segnale manda se poi succedono proprio vicende come quello di Meghan Markle. Appunto. Poi c'è stato un fatto dell'altro ieri, che la figura televisiva a destra più conosciuta, più seguita, uno che si chiama Piers Morgan, che non saprei come, è un misto tra, come si chiama quello, Porro, però uno che è anche seguito da milioni di persone, specialmente i sopra 65, i bianchi, delle campagne, seguono questa figura di Piers Morgan, che è sempre stato pubblicamente schierato contro Meghan Markle. Si dice perché una volta era amico di lei, e poi dopodiché si sono litigati, e dopodiché l'ha sempre odiato e l'ha sempre pubblicamente denigrata. E quindi praticamente lui fino a martedì era uno dei conduttori della trasmissione mattutina dell'ITV, la seconda canale televisivo, e lunedì aveva detto, aveva fatto una specie di discorso di mezz'ora dicendo che Meghan Markle sta distruggendo la famiglia reale, sta dicendo bugia, eccetera, eccetera. E quindi il giorno dopo c'è stato un battibecco in studio tra lui, perché ha continuato a sottolineare questa cosa che Meghan Markle è una bugiarda, e praticamente quello che presentava il meteo, che è uno di Bristol Nero, ha detto no, basta, io, cioè, mezz'ora abbiamo dovuto sentire tutte le tue uscite, cioè basta, non ce la facciamo più. A quel punto Piers Morgan, quello che prende un sacco di soldi, si è alzato, è uscito dallo studio, quindi questo momento televisivo che poi è diventato virale, tutti l'hanno visto, e il giorno dopo, la sera stessa, ha dichiarato che lascia il programma, e dopo che aveva discusso con la produzione aveva anche sottolineato che hanno ricevuto 40.000 le segnalazioni dal pubblico arrabbiati per questo suo discorso. E quindi cosa fa? Lui si difende che questo è l'ennesimo esempio della cultura della cancellazione, no? Questa è l'idea, dobbiamo comunque, no, renderci conto del contesto in cui è successo tutto questo, cioè una guerra culturale in Inghilterra, che si sposa un po' con quello che c'è tuttora anche negli Stati Uniti, in cui si da parte della destra si scaglia contro i cosiddetti woke, no? Questi che pensano troppo alla giustizia razziale, la giustizia sociale, e nel frattempo minacciano il diritto alla parola, diritto di espressione, che secondo loro è la cosiddetta cultura della cancellazione. E questo è quello che ha detto subito Piers Morgan. C'è da sottolineare che il Regno Unito ha le leggi di diffamazione più restrittivi nel mondo, quindi queste idee della cultura della cancellazione lo vai a chiedere a qualcuno che ha cercato di fare campagne contro le grosse multinazionali, appena dicono qualcosa vengono appunto cancellati. Quello è un altro discorso. Quindi comunque è una campagna, un richiamo, è una, diciamo, politica di fischio del cane, come si dice in inglese, dog whistle politics. Lui lo dice perché sa di avere un pubblico di destra che lo segue. E la cosa interessante, così chiudiamo questa vicenda, è questa figura molto seguita, molto famosa anche in America, perché per qualche anno è stato un conduttore per il CNN, diventato anche molto amico di Donald Trump, poi l'ha criticato, e non è uno che ha paura di criticare, è stato molto duro, uno dei più duri sul governo Johnson durante la pandemia, poi mettendo cioè proprio deridendo, attaccando furiosamente i ministri che entravano in studio, quindi aveva anche questo ruolo, no? Lui se ne va e si dice che è tutto già programmato, perché sta per essere andare in onda un nuovo canale televisivo nel Regno Unito, che sarà un po' simile a quello Fox, si chiama GB News, che sarà poi un canale di destra, che un po' segue il solco di Fox, no? Che cerca di creare scandalo, parlare appunto della questione della cancellazione della cultura, la sinistra, la mafia di sinistra liberale che non ci lascia dire quello che vogliamo dire. E si dice che lui se ne va perché appunto questo canale televisivo, che ha un sacco di soldi che arrivano dal Golfo, che arriva dal Discovery Channel, c'è un progetto che va avanti da un paio di anni, che dovrebbe cominciare ad andare in onda nelle prossime settimane, lui adesso se ne va e si trova comunque con un lavoro molto ben retribuito, altri milioni in più. E quindi sicuramente sentiremo di questo canale televisivo e del suo, diciamo, suo stella, che sarà appunto Piers Morgan, che ha un odio, come si dice, un odio totale per la figura di Meghan Markle, e si dice appunto che è una cosa personale, però anche per il suo odio del discorso dell'attacco del razzista. E lui appunto noi non siamo razzisti, siamo persone buone, l'Inghilterra è il paese più tollerante, che è anche un discorso molto di destra, no? Questo totale rifiuto di capire le questioni in bilico. Dunque vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con un ultimo brano musicale, prima di passare la parola al compagno, e questo è di Mia, cantante anglo-cilanchese, e questo di qualche anno fa, il pezzo si intitola Bad Girls. Take you. Get back, get down. Pull me closer if you.